giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il ferimento di un agente della polizia locale ieri mentre tentava di sedare una rissa ripropone i temi della sicurezza in Borgo Stazione. Si avvicina una soluzione per la querela dei posti al mercato di Pordenone, dove gli ambulanti sono alle prese con la crisi e una forte concorrenza. L'Istituto Tecnico Superiore del Malignani di Udine ha indotto quest'anno un indirizzo specifico nel settore dell'efficienza energetica per formare specialisti del settore. Tutti possono diventare protagonisti del primo soccorso. Oggi a Udine l'avvio di un'attività orientata nelle scuole superiori. Il prossimo anno a Trieste sarà operativo It's Academy, un istituto tecnico superiore per formare professionisti del turismo e della ristorazione. Per il calcio questa sera l'Udinese al Friuli alle 21 affronta il Monza nei sedicesimi di Coppa Italia. In campo anche la Triestina alla stessa ora contro il Padova. Al via questa sera al Teatro di Cormons la 25esima edizione della rassegna musicale Jazz and Wine of Peace Festival. Alle 12:31 minuti e 24 secondi, ancora un cordiale buongiorno da Francesca Terranova e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. La rissa tra pakistani e afghani di ieri pomeriggio, che ha causato anche il ferimento di un agente della polizia locale, ripropone i temi della sicurezza in Borgo Stazione a Udine, dove si stanno intensificando intemperanze e tensioni. Convocato un comitato per l'ordine e sicurezza per venerdì prossimo. L'ultima rissa ieri in Viale Leopardi a Udine, vicino alla stazione degli autobus, in pieno giorno alle ore 15, con 5 persone fermate, 5 pakistani, la cui posizione è al vaglio della procura, con precedenti penali, in un caso anche con un decreto d'espulsione. Solo l'ultimo episodio, il penultimo, si era verificato domenica con un bar danneggiato. I residenti della zona chiedono un controllo maggiore del territorio e le istituzioni stanno provando a dare una risposta. Questa mattina è stata convocata per venerdì una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Allora chiediamo al prefetto Massimo Marchesiello quali operazioni, quali iniziative si intendono prendere. Sicuramente un problema da non minimizzare, visto anche questi episodi recenti. Venerdì col Comune, quindi anche con presente il Sindaco, l'Assessore Delegato, i comandanti di Polizia Locale e le Forze dell'Ordine, valuteremo le strategie più opportune, che sicuramente prevederanno un'intensificazione a breve dei controlli, ovviamente coordinati con la valutazione del Questore, con gruppi interforze. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E calano i consumi anche al mercato, dove gli ambulanti sono comunque costretti a contenere i prezzi per non perdere la clientela. E sul fronte concessioni la soluzione appare vicina. Siamo stati a Pordenone, in uno dei mercati più importanti del Nord-Est. Consumi in calo e prezzi che tra le bancarelle devono necessariamente restare bassi, così anche i mercati soffrono il difficile momento economico. Da Pordenone, una delle piazze più importanti del Nord-Est, il portavoce del GOIA, principale sindacato degli ambulanti, Gilberto Marcolin, evidenzia una contrazione dei consumi che in media oscilla tra il 20 e il 25%. Chi ha più giro lo sente meno, ma in generale lo avvertono tutti, spiega Marcolin, che sul fronte prezzi sottolinea lo sforzo dell'intera categoria nel contenere al massimo gli aumenti, nel fresco quelli più sensibili, causa i rincari energetici, aggiunge, e qualcuno segnala anche rialzi più forti tra i prodotti italiani rispetto a quelli importati. Aumenti percepiti in ogni categoria merceologica dai consumatori che, stando a quanto raccontano, stretti dal ridotto potere d'acquisto, stanno cambiando le abitudini, riducono in modo drastico gli sprechi e fanno la spesa più spesso, ma acquistando ogni volta di meno, cercando di non rinunciare alla qualità. Dallo spinoso e controverso fronte delle concessioni arriva intanto la buona notizia: sarebbe vicina a una soluzione condivisa con la regione che tutela le bancarelle storiche. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Risparmio energetico. L'Istituto Tecnico Superiore del Malignani di Udine, un corso di studi post-diploma di maturità, ha introdotto quest'anno un indirizzo specifico nel settore dell'efficienza energetica per formare specialisti dell'energia, appunto. Ne abbiamo parlato questa mattina nel nostro programma. Buongiorno Regione, sentiamo. Con la crisi energetica e la crisi climatica, le aziende del territorio sono alla ricerca di professionisti del settore dell'energia, da chi installa pannelli solari a chi elabora strategie verdi. È aumentata in particolare la domanda di energy manager ed energy specialist, ai quali l'Istituto Tecnico Superiore del Malignani di Udine dedica un corso di specializzazione post-diploma. Si tratta di tecnici specializzati nella gestione dei sistemi dell'energia. Esther Riannis, direttrice MITS. Hanno forti competenze soprattutto nel mondo e nell'ambito delle energie rinnovabili e delle normative di riferimento. Ancora intervengono quindi, sulla base utilizzando queste loro competenze, nelle diverse tipologie di impianti. Parliamo di solare termico, parliamo di fotovoltaico, di biomasse. Il programma del corso, come per tutti gli indirizzi degli istituti tecnici superiori, è costruito insieme alle aziende. Vengono così formate figure che si possono inserire con facilità nel mondo del lavoro. Vengono posti ai ragazzi attraverso il project work, che è un momento importante delle 2000 ore che costituiscono il percorso di apprendimento, delle problemi, delle situazioni problematiche reali che i ragazzi devono affrontare sulla base delle conoscenze che vengono acquisite. E ancora importante lo stage nelle aziende. 25 posti disponibili, le selezioni sono ancora aperte e molto all'interesse degli studenti. I percorsi sono particolarmente interessanti anche per le ragazze, quello dell'energy specialist che può diventare energy manager e che pertanto ha una forte connotazione nell'ambito della relazione e della comunicazione che è caratteristico delle ragazze. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo sulla regione. Il cielo è sereno, le temperature registrate alle 12 a Trieste 20 gradi e mezzo, il mare è calmo con temperatura di 21 gradi, a Pordenone 23, Gorizia 24, Udine 24 e mezzo, a Sappada 12 gradi e 5 decimi, Piancavallo 16 gradi e mezzo, a Tarvisio 17 e mezzo, a Forni di Sopra 18 e 5 decimi e a Tolmezzo 22 gradi e 5 decimi. In quota sul Monte Lussari e Monte Zoncolan 12 gradi. Andiamo sulla costa, Lignano 20 gradi e mezzo, a Grado 19 e mezzo e la temperatura del mare è sempre di 21 gradi. Ed è la volta delle previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Oggi pomeriggio cielo sereno poco nuvoloso, dalla sera su costa e zone orientali entrerà borino con aria più secca nei bassi strati. Bollettino del coronavirus: continua il calo dei contagi in Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati 1371, un centinaio in meno anche più rispetto a mercoledì della scorsa settimana. 6.739 tamponi effettuati, il tasso di positività è del 20,3%. Migliora ancora la situazione negli ospedali, i pazienti positivi nei reparti in area medica sono 217, quindi 8 in meno di ieri, i ricoverati nelle terapie intensive Covid scendono a 5, 1 in meno di ieri. Il bollettino della regione segnala 5 decessi, 3 dei quali avvenuti però nei mesi precedenti. Voltiamo pagina. Insegnare fin dalla giovane età i rudimenti del primo soccorso, snodo strategico per un progetto regionale, sono le scuole. Oggi da Udine l'avvio dell'attività. In Friuli Venezia Giulia ogni giorno si verificano in media 4 arresti cardiaci improvvisi, i tre quarti dei quali tra le mura domestiche. A livello nazionale solamente l'11% delle persone riesce a trovare soccorso tra i presenti. Luigi Blarasin, medico della SORES. In Friuli abbiamo una media che è il doppio di vittime soccorse in presenza dagli astanti, quindi circa il 20%. Però è vero che dobbiamo tendere a raggiungere regioni più virtuose come l'Emilia-Romagna e la Lombardia, dove questa percentuale di vittime soccorse efficacemente nei primi minuti si attesta attorno al 40%. Per parlare dell'importanza della rianimazione cardiopolmonare e sensibilizzare all'uso del defibrillatore, la SORES ha avviato il progetto Una chiamata per salvare una vita, che punta a raggiungere il maggior numero di scuole superiori della regione. Partito nel giugno scorso in 4 scuole pilota, con il supporto di Fondazione Friuli e dell'Assessorato alla Sanità, oggi ha coinvolto 11 classi del liceo scientifico Marinelli. Non si tratta di un corso abilitante, ma di un'attività di sensibilizzazione inserita nei piani formativi. Tutti gli istituti possono farne richiesta. Amato De Monte, direttore della struttura operativa regionale Emergenza Sanitaria. Ci siamo tornati su un target nelle scuole superiori, però si può cominciare fin dalla primissima età, perché chiaramente tu lo insegni ai piccoli e questi fanno, oltre che apprendere loro, fanno da grande cassa di risonanza per il futuro. È stato fondamentale, devo dire, per me assistere e cercare di capire come poter intervenire in caso di emergenza. Io ho sentito parlare soltanto di rimando fino ad oggi di queste pratiche e oggi è stato molto, molto interessante, molto formativo. Udine, Lillo Montalto Monela, TGR, Friuli Venezia Giulia. I sindaci della comunità di montagna del Canal del Ferro e della Val Canale hanno illustrato a Pontebba i problemi sul fronte della sanità all'assessore regionale Riccardi. Mancano medici di medicina generale e guardie mediche. La situazione che i primi cittadini si trovano ad affrontare non è semplice, ha detto Riccardi. A loro va tutto l'appoggio della regione. Siamo arrivati a questo punto per un grave deficit nazionale nella programmazione sanitaria, per l'effetto di limitati percorsi di formazione universitaria e anche per vincoli stringenti sulle politiche retributive, tutti i temi che il nuovo governo dovrà affrontare investendo in maniera importante sul capitale umano, ha specificato Riccardi. All'Università di Trieste è tornato in presenza, dopo gli anni della pandemia, l'Open Day dedicato ai futuri studenti, oggi toccato alle facoltà di tipo scientifico. Potrebbe intitolarsi la carica dei 10.000. Sono gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori che prendono parte all'Open Day dell'Università di Trieste, quest'anno tornato in presenza. 3 giornate, 19, 20, 21 ottobre, per orientare i giovani, che vengono da tutta Italia, ma anche da Slovenia, Croazia e Svizzera, per schiarirsi le idee e trovare il percorso universitario più adatto a loro. Le preferenze e le curiosità sono in continuità con gli ultimi anni. Ingegneria ed economia sono tra le più richieste, tanto che è stato necessario raddoppiare le aule per raccogliere gli studenti. E lo stesso è accaduto anche per psicologia. Lucio Torelli, delegato all'orientamento dell'Università di Trieste. La cosa che ci piace vedere è che il sold out che c'è stato ha interessato tutti i corsi di laurea, sia quelli apparentemente più in evidenza, più professionalizzanti in questo periodo, ma anche quelli magari apparentemente meno professionalizzanti. Si conferma l'interesse per le professioni sanitarie, con l'aula magna riempita di studenti interessati a medicina, ma crescono anche i corsi di infermieristica e biologia marina. Attrae molto anche il mondo tecnologico-scientifico, con i corsi relativi alle professioni più tecnologiche del futuro. Sono stati premiati i corsi che stanno cercando di andare in questa direzione, sia corsi classici di ingegneria ma anche i corsi da poco aperti di intelligenza artificiale, che hanno visto un consolidamento delle immatricolazioni e dell'interesse. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo a parlare degli istituti tecnici superiori che offrono percorsi di alta formazione a cui si accede dopo il diploma di scuola superiore, sviluppati in stretto contatto con le imprese. Il prossimo anno nascerà ITS Academy per formare professionisti del turismo e della ristorazione. Mancano professionisti del terziario, cuochi, camerieri, ma anche manager d'albergo con capacità gestionali e digitali. Gli operatori del turismo e della ristorazione è da tempo che manifestano la difficoltà di reperimento di profili di questo tipo, un fenomeno che sembra essersi aggravato con la pandemia. E se il mondo del lavoro chiama, la regione risponde. Il prossimo anno nascerà ITS Academy, la scuola d'eccellenza e alta specializzazione post-diploma destinata alla formazione proprio di queste figure professionali così ricercate. Le sedi saranno due, una a Udine con un corso rivolto alla ristorazione e uno a Trieste per la parte dell'ospitalità. Un sistema, quello degli ITS, che in Friuli Venezia Giulia sta funzionando bene. Da non confondersi con gli istituti tecnici statali, che fanno parte del normale ciclo scolastico e si concludono con la maturità, gli istituti tecnici superiori offrono invece percorsi di alta formazione a cui si accede dopo il diploma di scuola superiore e rappresentano un'occasione di formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. Nella nostra regione ce ne sono già quattro, due a Trieste, l'Accademia Nautica, Aeronautica e l'ITS per le nuove tecnologie della vita Alessandro Volta, uno a Udine, ITS Malignani, con corsi che vanno dall'agroalimentare al legno arredo fino all'aeronautica, e uno a Pordenone, l'ITS Alto Adriatico per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 763 gli studenti iscritti ai 4 ITS regionali, distribuiti su un totale di 32 corsi attivi che rappresentano il 4% di tutti i corsi presenti sul territorio italiano. 186 le aziende presso le quali è possibile compiere gli stage previsti, circa la metà delle quali sono realtà del territorio, e offrono vere opportunità di lavoro. Dei quasi 1.100 ragazzi e ragazze che finora hanno scelto questi percorsi, quasi 9 su 10 hanno trovato lavoro a pochi giorni dal conseguimento del titolo. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 12.45 alcune notizie di cronaca. In seguito ad alcuni incontri di coordinamento investigativo svoltisi nelle ultime settimane, l'indagine pendente alla Procura della Repubblica di Pordenone sull'attività della New Financial Technology Limited, società di diritto inglese che proponeva investimenti in criptovalute con interesse nell'ordine del 10% mensile, è stata da qualche giorno trasferita alla Procura della Repubblica di Treviso, che ne ha rivendicato la competenza territoriale. L'ha reso noto il procuratore della Repubblica di Pordenone, Raffaele Tito. Tanto fumo e paura in Corso Italia alle 11 di questa mattina a Trieste per un principio di incendio in un ex laboratorio di odontotecnici al numero civico 26. Fortunatamente l'appartamento era vuoto in quel momento. Nessun danno strutturale o persone intossicate. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'autoscala e i pochi inquilini presenti a quell'ora nello stabile sono usciti autonomamente, compresi anche due gattini di cui si sono poi presi cura i vigili del fuoco. Sono in corso tuttora le operazioni di messa in sicurezza dell'appartamento per anche evacuare i fumi e monitorare il monossido in tutto l'edificio. Si segnalano disagi per il traffico. Siamo allo sport, al calcio. L'Udinese gioca in casa con il Monza questa sera alle 21 per la Coppa Italia. Siamo ai 16esimi di finale, gara unica. Chi vince passa agli ottavi e a gennaio affronterà la Juventus. Anche la Triestina gioca in casa questa sera alle 21 per la partita di campionato in turno infrasettimanale contro il Padova. Una partita cruciale. I giuliani sono al terzultimo posto della classifica di Serie C con 7 punti, mentre il Padova è terzo con il doppio dei punti insieme a Lecco, Novara e Pordenone. I ramari giocano domani in casa invece contro il Trento alle 18.30. Pallavolo maschile, questa sera la squadra del Tinet Prata gioca in casa alle 20.30, desiderosa di rivincita. Ospitano la Conad Reggio Emilia per la terza giornata di Serie A2. I ragazzi di Dante Bonifante sono soddisfatti per aver tenuto testa per gran parte del match all'Agnelli TPS Bergamo, ma anche rammaricati per aver visto sfuggire per poco la possibilità di fare punti. La Conad Reggio Emilia è reduce da due successi, il primo per 3-2 con Motta e il secondo nel weekend per 3-0 contro Lago Negro. I reggiani sono guidati in panchina da un mito della pallavolo italiana, il due volte campione del mondo, Luca Cantagalli. Musica, jazz e buon vino. Inizia questa sera la 25esima edizione di Jazz and Wine, appuntamento alle 20.30 nel Teatro di Cormons con la Mingus Night nel centenario della nascita di Charles Mingus. Sul palco i Mingus Fingers con il sassofonista Daniele Dagaro e il contrabbassista Alessandro Turchet. Salirà poi sul palco il contrabbassista Giovanni Maier con il trombettista Flavio D'Avanzo insieme alla scuola di jazz del Conservatorio di Trieste. Un'edizione, questa di Jazz and Wine, ricca di grandi artisti del panorama internazionale. Sentiamo l'intervista alla presidente del Circolo Culturale Controtempo, promotore del festival, Paola Martini. È la 25esima edizione di un festival che esprime al massimo quella che è la nostra passione, sia per la musica jazz ma anche per il territorio. Iniziamo appunto con la Mingus Night, ma già giovedì ci sarà una delle leggende del jazz più famose, che è Michel Portal, e poi sarà un susseguirsi continuo di concerti dalla mattina alla sera, mettendo in evidenza il territorio al meglio. Ci saranno anche dei passaggi in Slovenia, andremo al Kulturni Dom, ma andremo anche al Castello di Vipolzer. Avremo concerti in abbazia, in palazzi, in ville storiche. chiuderemo domenica con Julia Leige, che è un giovane chitarrista californiano, ma un grandissimo musicista. Ma non solo, c'è il festival nel festival. Ci sono questi 8 appuntamenti che abbiamo chiamato Jazz Test, dove sono 8 momenti nati proprio per esaltare il connubio tra il jazz e il vino. Quindi sono momenti di degustazione, ma che in realtà sono accompagnati dalla musica. Uno scambio quasi direi tra il vignaiolo e l'artista e il musicista. È un festival pensato soprattutto dopo la pandemia, proprio per ritornare ai tempi pre-pandemici, quindi con tanto pubblico, tanta voglia di ascoltare musica, gustare buoni vini, assaggiare quello che è anche il nostro territorio in sicurezza. Stasera alle 20.30 al Teatro Mille di Trieste, per la stagione cameristica Chamber Music, il concerto del duo composto dalla violinista turca Veriko Çamburdiz e dalla pianista georgiana Katevan Shepasvili. Programma classico con un'incursione nel classicismo viennese di Mozart, la sonata in re maggiore, opera 137 di Franz Schubert, per finire con la sonata in si minore di Ottorino Respighi. Il pianista parmense Antonio Alessandri è il vincitore della 26esima edizione del Premio Pianistico Internazionale Stefano Marizza, organizzato dal Conservatorio di Trieste e dalla famiglia Marizza, con il contributo del cavaliere Alessandro Rossitta e della scrittrice Marina Petronio. Il terzo premio ex aequo è andato alla russa Ekaterina Bonyushkina e alla pianista giapponese Wakana Marlene Tanaka. Il concerto dei vincitori si terrà questa sera alle 20.30 alla Sala Tartini del Conservatorio Triestino. Era questa l'ultima notizia, ha collaborato in redazione Samantha Gon, per la parte tecnica Giampaolo Zucchi e Carlo Morello. Da Francesca Terranova e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto, l'augurio di un buon pomeriggio e l'appuntamento è con il nostro TG del 14 e la radio ritorna alle 15. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.